schiavo del tramonto e nel silenzio di ciò che in realtà provare a abbracciare un sogno. Luce che vai via, che ti porti via, un altro giorno della vita mia che adesso è già un ricordo. Scivola piano e la nostalgia vela già il mio sguardo. Cosa ci sarà tra l'orizzonte e il cielo, fra le nuvole e i colori dell'arcobaleno? Siedi accanto, resta qui con me.